Salve a tutti e benvenuti su ilpiaceredescrivere.it. Vi ricordiamo che tutti i nostri podcast sono su Spreaker e su Internet Archive. Oggi torniamo a parlare, a quasi un anno dall'uscita in Italia, di Amazon Prime Reading, con alcuni consigli per gli autori esordienti che si dovessero trovare tra gli autori iscritti a questo innovativo programma. L'anno scorso, al momento dell'uscita, abbiamo parlato della novità e cosa aspettarsi da Amazon. Infatti, da poco tempo era comparso questo servizio a disposizione con l'abbonamento Prime, ovvero il prezzo era passato a 36 euro l'anno oppure a 4,99 euro al mese e, oltre alla spedizione gratuita su tantissimi prodotti, Amazon offriva 40 ore di musica, servizio cloud per le foto, film e serie TV di cui alcuni originali, e ovviamente la possibilità di leggere gratis fino a 10 ebook al mese. Ieri abbiamo testato il servizio per capire da vicino le differenze con Kindle Unlimited e quanto può essere utile per un autore esordiente questa novità di Amazon. Prima di cominciare, alcuni miti da sfatare. In Italia, rispetto ad altri paesi, la novità non è stata il servizio di rilancio del mondo ebook e nemmeno quella rivoluzione epocale per gli autori che ci si aspettava all'inizio del rilascio della nuova piattaforma. I motivi sono diversi, tra cui soprattutto, secondo noi, l'idea che comunque l'ebook sia sempre qualcosa di meno rispetto al cartaceo, che è un'opinione che ancora regge. Attualmente i titoli su Amazon Prime Reading sono ancora troppo pochi e diversificati per coinvolgere un pubblico di nicchia. Abbiamo fatto delle prove su genere e abbiamo scoperto, per esempio, che l'Ucronia non è disponibile o che alcuni autori anche classici come Asimov non sono disponibili. È anche vero che per un autore avere un altro strumento per catturare un pubblico di lettori fa sempre comodo. Infatti Amazon Prime Reading consente di raggiungere una platea più vasta rispetto a Kindle Unlimited. Perché? Perché se gli utenti di Kindle Unlimited pagano un abbonamento per leggere, quindi sono persone che già amano la lettura o che comunque sono interessate, gli utenti di Prime Reading possono non essere lettori consumati, perché è un servizio aggiuntivo rispetto a quello principale di spedizione. Quindi questi nuovi lettori che sono disabituati a leggere oppure che si sono trovati a passare casualmente sono un po' un nuovo mercato dove anche le librerie, le conferenze più classiche, più canoniche hanno perso il loro fascino. Quindi si va a lavorare su quella statistica di lettori che ormai non leggono più di un libro all'anno. Come sfruttare Amazon Prime Reading per il proprio libro e chi può farlo? Allora, un altro svantaggio di Amazon Prime Reading è che purtroppo al momento è Amazon a scegliere i testi che rientreranno poi nel catalogo e non è possibile contattare l'assistenza per fare richiesta. È anche vero che, come sappiamo, Amazon attraverso il servizio personale di Kindle Unlimited, quindi di self-publishing, di Kindle Direct Publishing, ha un occhio di riguardo per gli autori che hanno ceduto in esclusiva i diritti ad Amazon e che hanno anche una certa popolarità sia in termini di download sia in termini di letture su Kindle Unlimited. Quindi se un autore volesse essere in qualche modo valutato da Amazon, anche se Amazon non ha dato informazioni ufficiali in merito, può lavorare molto di recensioni, di promozione dell'ebook, di promozione del testo. Perché se arriva un certo numero di download, è probabile che Amazon ci dia un'occhiata e che possa pensare di inserirlo poi su Prime Reading. Naturalmente questa va presa come un'opinione, perché ovviamente non abbiamo contatti con il servizio ufficiale di Amazon e Amazon non offre informazioni commerciali. Se però un autore dovesse scoprire che il proprio libro è rientrato nel circuito Prime Reading, allora il consiglio è puntare sulla promozione sui social network e offline. Questa volta però non ci si dovrà riferire alle persone che magari sono già iscritte nella newsletter dell'autore, che lo conoscono, che vanno alle sue conferenze già da anni, ma ci si dovrà rivolgere a quelle persone che magari leggono nel tempo libero o leggono saltuariamente e che possono essere in qualche modo stimolate dal fatto di avere 10 libri gratuiti da leggere sullo smartphone in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, perché magari hanno già pagato la spedizione o l'abbonamento Amazon Prime tempo fa e non si sono accorti di avere questa opportunità. Quindi, su quali social puntare? Sicuramente sulle storie di Instagram, sicuramente sui video, quindi su YouTube e su Instagram, però ricordandosi sempre che Instagram prevede il formato verticale e dà più importanza alla diretta veloce. Quindi magari se scopriamo che il nostro libro si trova su Amazon Prime e non ne sapevamo niente, allora a quel punto può essere utile una diretta su Instagram per farlo sapere, anche con quel carico di emotività che è tipico dell'autore, e invece poi con calma magari programmare un book trailer o una comunicazione su YouTube. A questo punto potrebbe essere utile anche una sponsorizzazione su Facebook per catturare appunto questi lettori, che sono sì saltuari, ma che magari possono essere invogliati dalla gratuità del servizio. In più, per i lettori c'è la possibilità di restituire senza costi il testo una volta letto su Amazon Prime Reading, senza limiti né scadenze. Quindi è come se fosse una biblioteca, però senza quei doveri e quelle multe nel caso non si dovesse restituire il libro in tempo. In più può rivelarsi anche una fonte di autotutela. Perché? Perché molto spesso quando si manda un libro in promozione alle blogger o ai blogger in genere, per le segnalazioni di solito si manda un PDF. Alcuni per esempio hanno già l'idea di mettere il watermark per tutelare il proprio diritto d'autore, o per comunque verificare poi alla fine quali blogger sono stati contattati, quali no. E il fatto di poter contare su Amazon Prime Reading consente all'autore esordiente di informare il blogger, di dire lo trovi gratuitamente lì se hai Amazon Prime, e quindi valevole anche come conteggio di lettura. Quindi si tutela il diritto di autore, non si diffonde una copia pirata, automaticamente si ottiene la lettura in più su Prime Reading. Ovviamente poi sarà anche il blogger a dire che il libro sta su Prime Reading, con quello che ne consegue poi per i propri utenti. Quali sono i vantaggi invece per i lettori compulsivi, ovvero per quei lettori che leggono più di 30, 40, 50 libri all'anno? Allora, il problema dei lettori compulsivi è ovviamente il fatto di voler leggere sempre qualcosa di nuovo. E in questo caso Amazon Prime Reading diventa un'ottima possibilità rispetto a Kindle Unlimited. Con Amazon Prime Reading avremo 10 libri subito, considerato gratuitamente, visto che è incluso nei vari servizi, e si potrà restituire il libro quando finito, quindi non si occuperà troppa memoria, considerato anche che il servizio è disponibile per Kindle, tablet e smartphone, semplicemente scaricando l'app Kindle negli store ufficiali, quindi su Google Play e su iTunes si trova tranquillamente. E anche se parliamo di testi in un numero ridotto, qualche centinaio, alcuni sono anche di pregevole fattura. Basti pensare all'inchiesta su Paolo Borsellino, fino a passare alle serie fantasy complete, completando con le migliori storie d'amore delle grandi case editrici. Diverse guide per scrivere più velocemente, per leggere più velocemente, sui social network, sul network marketing, che sono anche abbastanza interessanti. Insomma, chi non ha maturato un gusto, o semplicemente ama leggere i libri come se fossero le caramelle di tutti i gusti più uno della saga di Harry Potter, troverà in Amazon Prime Reading un salotto comodo dove leggere per sempre. E per quanto riguardava Amazon Prime Reading è tutto. Vi ricordiamo che il piacere di scrivere.it è anche una collana di libri in collaborazione con PubMe. Attualmente abbiamo a disposizione Agantha, Racconti di uno spirito greco e Hanno ammazzato il tempo. Sono rispettivamente una raccolta di racconti e una raccolta di poesie, la prima sul mondo greco in genere e la seconda sulle varie vicissitudini della vita. Vi ricordiamo anche i racconti per bambini della ballerina di Francesca Cefalù e Dorian e la leggenda dell'Atlantide di Demetrio Verbano, che sono tra i nostri primi libri. Vi ricordiamo anche che Il piacere di scrivere è su Facebook, su Twitter e su Instagram. La musica di oggi era della Royalty Freak Music e si chiamava High Technologic Beat Explosion. Al prossimo appuntamento e non dimenticate di seguirci su Spreaker e su Internet Archive. Ciao!